ad alta voce. Anita Caprioli legge Patricia Highsmith. La ballerina. Ballavano meravigliosamente insieme, si lanciavano avanti e indietro sulla pista ai ritmi erotici del tango, talvolta del valzer. All'età di 20 e 22 anni, rispettivamente Claudette e Rodolphe divennero amanti. Volevano sposarsi, ma il loro datore di lavoro pensava che fosse più eccitante per i clienti saperli non sposati. E così non ne fecero niente. Il nightclub dove lavoravano si chiamava Rendezvous. E un certo tipo di clientela maschile, sazia e disillusa di mezza età, lo considerava una cura garantita per l'impotenza. «Venite, venite a veder ballare Claudette e Rodolphe», dicevano tutti. I giornalisti, nel tentativo di dar pepe ai loro articoli, descrivevano il loro come un numero sadomasochista, perché spesso Rodolphe faceva finta di strangolare Claudette. La prendeva per la gola e avanzava, oppure indietreggiava, non aveva importanza, piegandola all'indietro. Intanto le stringeva le dita intorno al collo, a volte la scuoteva in modo che la lunga capigliatura ondeggiasse selvaggiamente. Il pubblico tratteneva il fiato, sospirava e guardava affascinato. Il rullo di tamburi del trio che li accompagnava si faceva più alto e insistente. Claudette smise di andare a letto con Rodolphe perché pensava che l'astinenza gli avrebbe aguzzato l'appetito. Era facile per Claudette eccitare Rodolphe quando ballava con lui e poi abbandonarlo con uno scatto per andarsene tra gli applausi, qualche volta anche le risate degli spettatori. Come potevano sapere che Claudette stava davvero abbandonando Rodolphe? Claudette era capricciosa, non aveva veri e propri progetti, ma si mise con un tipo panciuto di nome Charles, buono di carattere, generoso e ricco. Andò perfino a letto con lui. Charles applaudiva forte quando Claudette e Rodolphe ballavano insieme, Rodolphe con le mani intorno al collo bianco ed esile di Claudette piegata all'indietro. Charles poteva ben permettersi di ridere, tanto dopo sarebbe stato lui a infilarsi nel letto della ragazza. Dato che i loro guadagni erano interdipendenti, Rodolphe mise Claudette di fronte a un'alternativa. Doveva smettere di vedere Charles, altrimenti avrebbe smesso di lavorare con lei. Se non altro avrebbe smesso di fare il numero delle mani intorno alla gola, come se stesse per strangolarla in un accesso di passione, che era quello che attirava i clienti. Rodolphe non scherzava e così Claudette promise di non andare più a letto con Charles. Mantenne la promessa. Charles si allontanò da lei e si fece vedere raramente al rendezvous, triste e avvilito, poi smise di andarci del tutto. Ma Rodolphe si rese conto a poco che Claudette se la faceva con altri due o tre uomini. Cominciò ad andare a letto con loro e gli affari andarono ancora meglio che ai tempi di Charles, che dopo tutto era un uomo solo, con un solo gruppo di amici da portare al rendezvous. Rodolphe chiese a Claudette di lasciare tutti e tre gli uomini. Lei promise, ma i tre o i loro emissari continuarono a ronzare intorno al camerino tutte le sere con fiori e bigliettini. Rodolphe, che non passava una notte con Claudette da 5 mesi ormai, ma che incollava il suo corpo a quello di lei tutte le sere sotto gli occhi di 200 persone, Rodolphe danzò uno splendido tango una sera. Se la strinse contro come al solito e lei si piegò all'indietro. «Ancora, ancora!» gridava il pubblico maschile per lo più, mentre le mani di Rodolphe si stringevano intorno alla gola di Claudette. Claudette fingeva sempre di soffrire, di amare Rodolphe e di soffrire alla stretta appassionata delle sue mani durante il numero. Questa volta non si alzò quando lui la lasciò. Rodolphe l'aveva strangolata davvero, con troppa forza perché lei avesse il tempo di gridare. Rodolphe uscì dal piccolo palcoscenico e lasciò Claudette in terra perché la raccogliessero gli altri. L'Evangelista. Dio arrivò tardi per Diana Redfern, ma arrivò. Diana aveva 42 anni quando, scendendo giù per la strada zuppa di pioggia, con le gocce che cadevano dagli olmi dopo un violento acquazzone, sperimentò un cambiamento, una rivelazione. Questa rivelazione concerneva la mente, il corpo e anche l'anima. Diana prese coscienza dell'esistenza della natura, del Dio onnipotente che la pervadeva. Nello stesso istante il sole, che cercava di farsi strada tra le nuvole, le illuminò il viso e il corpo, illuminò l'intera strada che si chiamava Via degli Olmi. Diana restò ferma, immobile, con le braccia allargate e incurante di quello che avrebbe potuto pensare la gente. Lasciò cadere la borsa della spesa vuota e si inginocchiò sul marciapiede. Poi si alzò e il suo passo si fece più leggero. Le commissioni non le costarono il minimo sforzo. All'improvviso la cena fu pronta. Suo marito Ben e sua figlia Prunella di 14 anni seduti a tavola a lume di candela con un cocktail di scampi nel piatto. «Ora preghiamo», disse Diana con grande sorpresa di marito e figlia. Misero giù le forchettine per gli scampi e chinarono la testa. C'era un tono di comando nella voce di Diana. «Dio è qui», disse Diana a mo' di conclusione. Nessuno poteva negarlo o contraddire Diana. Ben lanciò a sua figlia un'occhiata perplessa che gli venne restituita, poi cominciarono a mangiare. Diana diventò subito una predicatrice laica. Cominciò con l'organizzare dei tè pomeridiani a casa il martedì e il giovedì, ai quali invitò i vicini. I vicini erano per lo più donne, ma c'erano anche degli uomini in pensione. «Siete consci della costante presenza di Dio?» chiedeva Diana. «Sono solo quei poveretti che non hanno mai conosciuto Dio a dubitare dell'immortalità dell'anima e della vita eterna dopo la morte». I vicini restavano in silenzio, da principio perché cercavano di trovare una risposta adeguata, l'atmosfera era quella di un normale tè, e poi perché affascinati prevedevano non lasciare parlare Diana. La frequenza a quei tè si intensificò. Diana cominciò a corrispondere con anziani, carcerati e ragazze madri, i cui nomi le erano stati fatti dalla chiesa locale. Il pastore era il reverendo Martin Cousins. Approvava il lavoro di Diana e parlò di lei dal pulpito, definendola «quella di noi che Dio ha ispirato». Nella soffitta che aveva in parte sgomberato e adibito a studio, Diana si inginocchiava su uno sgabello basso tutte le mattine all'alba e restava così per quasi 2 ore. La domenica mattina, troppo presto per interferire con le cerimonie della chiesa locale, alle 11 predicava all'angolo della strada, ritta su una delle sedie di formica della sua cucina. «Non vi chiedo nemmeno un penny, a Dio non interessano le monete di Cesare, io vi chiedo solo di donarvi a Dio». «Inginocchiatevi!» Stendeva le braccia, chiudeva gli occhi e riusciva a far inginocchiare parecchie persone. Alcuni scrivevano il loro nome e indirizzo nel suo librone. A questi Diana si scriveva personalmente allo scopo di rafforzare la loro fede. Ora Diana indossava una lunga veste bianca e un paio di sandali, perfino nel clima più rigido. Non prendeva mai il raffreddore. Le sue palpebre erano sempre state rosee, come se non avesse dormito a sufficienza. Ma invece dormiva parecchio, o almeno aveva dormito parecchio in passato. Ora non dormiva più di 4 ore per notte, in soffitta dove indugiava a scrivere fin molto dopo la mezzanotte. Le sue palpebre diventarono ancora più rosee e i suoi occhi cominciarono a sembrare più azzurri. Se fissava lo sguardo su uno sconosciuto, quasi sempre questi restava fermo, timoroso di muoversi, fino a quando lei gli comunicava il suo messaggio, che sembrava un messaggio personale. «Sii cosciente e vincerai». Era difficile per Ben capire dove volesse arrivare Diana. Non voleva aiutanti, anche se lavorava abbastanza da sfiancare 3 o 4 persone. Il suo comportamento era causa di un certo imbarazzo per Ben, che era il direttore di un negozio di oreficeria e orologeria nella città di Pawnuk, in Minnesota. Pawnuk era una zona residenziale nuova, abitata da ricchi WASP, scappati dalla vicina metropoli. «Meglio prenderla con calma ed essere tolleranti», pensava Ben. «Diana non fa niente di male comunque». Prunella era in un certo senso spaventata da sua madre e quando Diana le passava accanto in una stanza o nell'atrio si scansava istintivamente. Ormai anche Ben si rivolgeva alla moglie in tono deferente e gli capitava perfino di balbettare. Diana comunque non passava molto tempo in casa, aveva cominciato a fare brevi viaggi in aeroplano a Philadelphia, New York e Boston, le città che avevano più bisogno di salvezza, secondo lei. Se non disponeva di un auditorium, era in contatto postale e telefonico con varie camere di commercio che le organizzavano queste cose. Diana entrava in una chiesa qualunque o in una sinagoga e prendeva il posto del predicatore. In tunica bianca e sandali con qualunque tempo, coi lunghi capelli biondi sparsi sulle spalle, non poteva mancare di attirare l'attenzione generale quando avanzava lungo la navata e saliva sul pulpito o sul rostro. Chi avrebbe potuto o osato sbatterla fuori? Diana predicava il verbo. Fratelli, sorelle, dovete liberarvi delle ragnatele del passato. Dimenticate le vecchie frasi imparate a memoria. Pensate a voi stessi come a essere rinati in questo momento. Oggi è il vostro vero compleanno. Anche se alcuni pastori e rabbini si seccavano molto per l'intrusione, nessuno tentò mai di zittirla. I membri delle varie congregazioni, come già i vicini che Diana aveva arringato dai marciapiedi della sua città, restavano zitti ad ascoltare. Nel giro di 6 mesi, la fama di Diana Redfer si sparse in tutta l'America. I pochi che torcevano il naso, ed erano davvero pochi, la facevano segno a critiche molto blande. I più irritati erano gli operatori dell'industria della carne, perché Diana predicava una dieta vegetariana e le rinunce dei suoi adepti stavano cominciando a lasciare il segno sui profitti dei macelli di Chicago. Diana organizzò un giro del mondo della resurrezione umana. I soldi arrivavano a fiumi o cadevano dal cielo come manna, mandati da stranieri, francesi, tedeschi, canadesi, gente che aveva letto di lei nei giornali e non l'aveva mai vista. Quindi le spese di organizzazione del giro del mondo non erano un problema. Diana arrivò addirittura a rimandare indietro alcune offerte. Di certo non era avida, ma fu presto evidente che non poteva farcela rispondere da sola alle lettere più importanti e a rimandare indietro i contributi, e così cominciò a depositarli su uno speciale conto bancario. Ora era una domestica ore a preparare i pasti per la famiglia di Diana, pasti vegetariani, ovviamente. La casa sembrava ormai un ostello per giovani e vecchi, dato che alla porta c'era sempre qualcuno che voleva parlare con Diana. E Ben aveva smesso di trasecolare allo spettacolo di intere famiglie con 3 o 4 bambini accampate sui 2 divani del soggiorno e nelle camere degli ospiti. «Tutto, tutto è possibile», diceva Diana a Ben. Sì, pensava Ben, ma mai avrebbe immaginato che il suo matrimonio sarebbe finito così, con Diana completamente isolata da lui, su un letto di chiodi più o meno in soffitta, e la casa pullulante di sconosciuti. Sentiva che quella storia si stava avviando al culmine con il viaggio intorno al mondo di Diana, e che, come gli eventi biblici, sarebbe andata al di là del suo controllo. Diana sarebbe diventata una specie di santa vivente, forse, e più famosa di quanto lo fosse mai stato alcun santo vivente. La mattina della sua partenza per il viaggio intorno al mondo, Diana si spostò dalla sala della finestra della soffitta, alzò le braccia verso il sole nascente e fece un passo in avanti, convinta di poter volare o almeno galleggiare nell'aria. Cadde su un tavolino rotondo di ferro battuto, dipinto di bianco, e sui mattoni rossi del patio. Fu così che Diana Redfer incontrò la sua fine terrena. La perfezionista. Il padre di Margot Fleming, molto ammirato dalla figlia, diceva spesso: «Qualunque cosa si faccia, vale la pena di farla bene». Margot credeva che qualunque cosa si facesse, valeva la pena di farla perfettamente. La casa e il giardino dei Fleming erano sempre in ordine perfetto. Margot si occupava del giardino, anche se i Fleming si sarebbero potuti permettere un giardiniere. Perfino il cane, di nome Roger, dormiva sempre al suo posto, un tappetino davanti al caminetto, e non saltava mai addosso alla gente per far le feste, si limitava a scodinzolare. L'unica figlia dei Fleming, Rosamond, di 14 anni, aveva uomini impeccabili, e il suo solo difetto era una certa propensione all'asma. Se nel riporre una forchetta nel cassetto dell'argenteria si accorgeva di un'incipiente ossidazione, Margot tirava subito fuori il necessario e cominciava a lucidarla, e questo di solito portava, qualunque fosse l'ora del giorno o della notte, a una completa lucidatura dell'argenteria, che assumeva assolutamente un aspetto scintillante. Poi Margot attaccava il servizio da tè e il coperchio del piatto per la carne. C'erano anche i portaritratti d'argento del soggiorno e la scatoletta dei francobolli sul tavolino del telefono, e capitava che Margot lavorasse fino all'alba. Comunque c'era una cameriera di nome Dolly che veniva 3 volte alla settimana per svolgere le faccende più pesanti. Di rado Margot osava preparare un pasto per la famiglia, mai per gli ospiti, questo nonostante una cucina dotata di ogni moderna comodità, compreso un congelatore a parete, 3 frullatori, un apriscatole e una fila coltelli elettrici, un'enorme cucina a gas con 2 forni con lo sportello di vetro e armadietti pieni di pentole a pressione e non, colini e padelle di ogni dimensione. I Fleming non mangiavano quasi mai in casa, perché Margot aveva paura che i suoi piatti non riuscissero perfettamente. Qualcosa, forse la minestra, forse l'insalata, avrebbe potuto lasciare desiderare, pensava Margot, e così rinunciava a cucinare. Spesso i Fleming invitavano gli amici a bere qualcosa, ma poi salivano tutti in macchina e guidavano per 8 miglia fino alla città per andare a cena in un ristorante, tornando poi a volte dai Fleming per il caffè e il brandy. Margot era un po' ipocondriaca. Si alzava presto la mattina, se non era già sveglia dopo aver passato la notte a lucidare l'argenteria o i mobili, per fare i suoi esercizi yoga, seguiti da una mezz'ora di meditazione. Poi si pesava. Se aveva perso o acquistato una frazione di chilo durante la notte, cercava di rimediare stando attenta a quello che mangiava durante la giornata. Poi beveva il succo di un limone senza zucchero. 2 volte all'anno andava per un paio di settimane in una stazione termale, dove sentiva sparire i piccoli dolori accusati durante i precedenti 6 mesi. Alla stazione termale la sua dieta era perfino più semplice e il suo viso sottile diventava un po' più ansioso, anche se faceva uno sforzo per mantenere un'espressione intelligente e simpatica, dato che questo faceva parte dell'ideale di perfezione che sperava di raggiungere. «I tal dei tali sono molto informali», diceva qualche volta suo marito Harold. «Non dobbiamo offrir loro un banchetto, ma sarebbe carino intagliare la cena qui». Niente da fare. Margot rispondeva con frasi tipo «Non credo proprio che ce la farei. È tanto più semplice andare al ristorante, Harold caro». L'espressione di Margot si faceva così sofferente che Harold non riusciva mai a insistere, ma pensava spesso «Quella grande cucina e non possiamo nemmeno invitare un paio di amici per un omelette». E così fu con enorme sorpresa di Harold che un giorno di ottobre Margot annunciò con la solennità di un crociato che prega prima della battaglia: «Harold, daremo una cena. Qui!» L'occasione era duplice. Mancavano 9 giorni al compleanno di Harold, che quell'anno cadeva di sabato, e Harold era appena stato promosso vicepresidente della sua banca, con un aumento di stipendio. Ce n'era abbastanza per offrire un party. E Harold sentiva di doverlo ai colleghi, ma tuttavia sarebbe stata capace Margot di organizzarlo. «Dovremmo invitare almeno 20 persone», disse Harold, «perfino io ho pensato a un ristorante questa volta». Ma Margot sentiva semplicemente di doverlo fare, se voleva essere una moglie perfetta. Mandò gli inviti, passò 2 giorni a studiare il menù con l'aiuto della Russe Gastronomique, lo batté a macchina in triplice copia. E fece anche la lista della spesa in triplice copia, per paura di perdere il menù. A quel punto mancavano 7 giorni al party. Margot decise che le tende del soggiorno erano sbiadite e girò la città in lungo e in largo in taxi per cercare il tessuto giusto, poi la passamaneria d'oro per i bordi. Confezionò le tende con le sue mani. Chiamò un tappezziere per rifare le fodere del divano e delle 4 poltrone e pagò una tariffa straordinaria per l'urgenza. Le finestre già pulite vennero rilavate da Margot e Dolly, idem per il servizio di piatti da 24. Margot restò sveglia le 2 notti precedenti la festa per il compleanno promozione e naturalmente lavorò anche durante il giorno. Lei e Dolly fecero una prova del complicato budino che doveva costituire il clou della serata. Lo trovarono eccellente e lo buttarono via. Arrivò il gran giorno. E tra le 7:30 e le 8 di sera 22 persone, in una serie di macchine private e taxi, sciamarono in casa di Margot. Margot stessa, un maggiordomo assunto per l'occasione e Dolly, giravano con vassoi di bevande, tartine calde e creme di formaggio. Il tavolo da pranzo era stato allungato al massimo, una distesa immacolata di tovaglie bianche, candelabri d'argento e vasi di garofani rossi. Andò tutto bene. Le donne lodarono l'aspetto della tavola e la minestra. Gli uomini dichiararono il bianco eccellente. Il direttore della banca di Harold propose un brindisi a Margot. Fu allora che Margot cominciò a sentirsi male. Prese una seconda tazza di caffè e accettò un secondo brandy che non voleva. Ma come rifiutare? Gliel'aveva offerto uno dei colleghi più anziani di Harold. Poi si infilò in camera da letto e inghiottì una pasticca di benzedrina. Non aveva l'abitudine di prendere roba del genere e aveva in casa quelle pasticche solo perché di recente aveva supplicato il dottore di prescrivergliele. Solo in casi straordinari, e il medico gliele aveva date purché promettesse di non abusarne. 10 minuti dopo Margot si sentiva leggera, fluttuava, volava quasi. Si spaventò, tornò in camera da letto e prese un leggero sonnifero. Beve un altro brandy che qualcuno le aveva messo in mano. Harold propose un altro brindisi alla sua banca e questo venne seguito alcuni minuti dopo da un brindisi a Harold, proposto all'unanimità, dato che era il suo compleanno. Margot partecipò doverosamente a tutti quei brindisi. Alla fine del party le sembrava di camminare nel sonno come un fantasma o un'altra persona. Quando la porta si chiuse alle spalle dell'ultimo posto, crollò a terra. Venne chiamato il dottore. Margot fu portata d'urgenza all'ospedale dove le venne praticata una lavanda gastrica. Rimase in stato di incoscienza per parecchie ore. «Niente di cui preoccuparsi, davvero», disse il dottore Harold. «La stanchezza più i nervi scossi da quelle pillole, si tratta solo di disintossicarla». Le venne fatta scendere in gola dell'acqua, molto lentamente. Margot riprese conoscenza e immediatamente provò un gran senso di vergogna. Era sicura di aver fatto qualcosa di terribile al party, ma non riusciva a ricordare cosa. «Margot, cara, sei stata bravissima», disse Harold. «Tutti hanno detto che è stata una serata incantevole», ma Margot era convinta che gli invitati l'avessero creduta ubriaca. Harold mostrò a Margot i bigliettini di ringraziamento colmi di lodi che aveva ricevuto da parecchi degli ospiti, ma Margot li interpretò come semplici gentilezze. Una volta tornata dall'ospedale, Margot cominciò a lavorare a maglia. Le era sempre piaciuto. Fece un programma ambiziosissimo. Coperte per tutti i letti di casa. 8, se si contavano i lettini delle due camere degli ospiti. Margot cominciò a trascurare la meditazione yoga, ma non gli esercizi. Poi lavorava e lavorava a maglia, dalle 6 del mattino fino quasi alle 2 di notte, perché necessario a inghiottire un boccone. Il dottore disse a Harold di consultare uno psichiatra. Lo psichiatra fece una chiacchieratina con Margot, poi disse a Harold: «Ma bisogna lasciarla sferruzzare, altrimenti potrebbe peggiorare. Forse potremo parlare dopo che avrà finito quelle coperte». Ma Harold sospettava che il medico stesse solo tentando di rincuorarlo. Le cose andarono sempre peggio. Margot disse a Dolly di non cucinare più perché non lo sapeva fare bene. I tre Fleming facevano veloci puntate al ristorante, poi tornavano a casa di corsa per permettere a Margot di ricominciare a sferruzzare. Sferruzza, sferruzza, sferruzza. Che cosa riuscirà a escogitare Margot per il futuro? Anita Caprioli ha letto Patricia Highsmith. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it